La tour reunion di Piccini Production, in collaborazione con i gammettoni di Patti, sempre di Piccini, e u tour reunion di Piccini, che si stangolano tutto, presenta una nuova puntata di C'è posta? Sì, capù, c'è posta. C'era. C'è una cambiale per te. Buonasera a tutti, c'è una cambiale per te. Stasera abbiamo con noi il signor Totonno Squacquatila, noto cittadino di Petruina. Buonasera, Mari. Sta puzzina una cosa. Vuole fare i soldi saluti? No, Mari, ti hai portato una seggia. Stiamo a Miliuzzo. E mo papi chi sta disiccato? No, non mi sarò pulito i picciretti. Ma mi sarò curato che i vecchioni di parata. La parlerei di Stale Carmino e di raccontarci la sua storia. La mamma... Cara Maria, sono qui perché tanti anni fa mi avevo trovata una. Poi ci ho fatto i corna con una rumena e mi ha lassato. Bella roba! Bella! Continui. Oh, va, per te è qui. E niente, siccome hai cambiato religione e mi posso sposare con quante femmine voglio, stai facendo uscire tutti i baldracchi che mi hai fatto. Solo che chi sta abitando un pognato non riesce a rintracciare. Che faccia tu questa? Va bene, vediamo se la signora Busine Drake no ha accettato l'invito. Vai, Ottaviano, dai, muovati. Ma è Gesù vero, la prossima volta è ancora per trovare la gente. Oh. C'è messo una settimana ad arrivare, ma non l'hai trovato subito a saggiottare di questi. Oh. Ottaviano, giusto una precisazione. Ma che me ne fui a me? Ne capi. No, per niente ti pagamo. Insomma, Ottaviano! Ha accettato l'invito. Alla fine ha accettato, sai Giota. Come sa, non segno Schumacher, sono partito 15 giorni a rete. Infatti chi sono saputo manco fa la ceretta. Allora c'è il spogliatore, non posso stagliare io. Va bene. Inconvenienti del giardinaggio a Pavate. Ma ora una cosa, ma che cazzo ne fai? Chissà che sono due per i miei capelli. E che me ne fai cano, Ottavia? Basta c'è. Ma c'è o non c'è? Sì che c'è, sta. Ah. Possiamo dire che Busineggia è qui. Però sei ma votasi, ma ne hai portato fino a due. Ma trasillani, chi non mi mai trasmare che arriva, aspetta. Dai, Rose. Insomma, viene a Busineggia, o no? Capito che è emozionato. No, ma non ce la posso fare, Mari. Salve, buonasera a tutti. Ciao, Mari. Busineggia, che? Capuzzina, cosa sei molto emozionata, Diciamo la verità. Ma sa che la televisione pare più bella. Dal vivo pare proprio un masco. Ma la salvata dei conviventi stasera, fatemi capire. Dove cazzo siamo trovati tutti chi? Ha te fatta questo avanti alla porta per chiudere spavare? Ah, ma che finisciamo la PPAC. Passiamo al dunque. Signora Busineggia, lei è qui perché qualcuno l'ha mandata a chiamare. Ma è capitano ovvio. Signora Marie, o saccio che stengo pognata, però ogni tanto a televisione. Ma vai via, doveva figlia da cugini canati, ma che sta il paese? Ha te fatto comandare il comune per te vedere la televisione. Ma comunque vediamo se me la posso cambiare. Ecco. Cambiale! La riconosce questa persona? Signora Maria, ma chi sei che lo figli bastardo? Buona mamma, ita torno, chi bo? Ah, ma tieni pure un coraggio, mi vieni a cercare ancora! Vai, Rosina, io non ti ho mai scordato. Ma ti ricordi che le passeggiate al parco Robinson? Con i cavalli! Minzi morzi le paperegge, gli struzzi, ti ricordi? Ma quali struzzi? Ti struzzo io con mano mia, ma ricordo tutto. Ma ricordo quando io mangiavo fare a pisci, meno ianco, cosa del genere mi facevi sempre pagare a mia, sono cazzi pizzenne. Ma mamma, dici ma chi cazzo vuoi? Ma tu usai che l'importante è che ti hai voluto sempre bene. Non saccio come te, ma ti amo ancora, mi vuoi sposare? Hai capito, però mi ha spennato, figlio mio. Mi ha soccato proprio l'anima. Mamma, te la posso chiedere una cosa? Ma è di te scesa cosa che mi vuoi sposare? Quando te l'hai chiesto io, mi ha risposto che stavi con una polacca. È una rumena. Però... Scusa, perdonami. Non già sanno se ne ho cangiato, hai cangiato pure la religione. A me chi me ne frega, scusa, non hai capito. Praticamente mi posso sposare con più femmine. Ma sovvidente, ma ricaccia da cambiare il gioco. Ma lei è sicuro che ti voleva accettare? Ma quale accettare? Caccia da cambiare, caccia la frico in frunda, su cretino. Sicurezza, che sta fa uno sciuggio? Prego, sicurezza, venite a mangiare la signora Rosineggia. Basta, capimmi la colpa mia, che cazzo va bene, va bene. Oh, vabbè, chiudiamo sta cambiare, chiudiamo sta cambiare. Per fortuna tutto bene, qualche finisce bene. Portatemi un bicchiere d'acqua e zucca, po. Acqua e zucca, po. Ma chi bene, ma ci sa cambiare e mi vuole ammenare. Ti chiudo buono con un ammenato. Poi, finalmente abbiamo finito. Per stasera è tutto. Arrivederci da Maria, Ottaviano e a cambiare. E chi che...